Mi sei tagliato il corpo! Dividi, ma che spazio! Date a barbotta! Per mendicare una rogna o qualcosa da spaccare con i denti! Ciao Carla! Ciao Carla! Ciao Carla! L'età del Signore sono infinito! E tu hai imboccato la più buia! C'è un uomo dietro i cassoni della monnezza! Da poco sarete! Stringi un cagnolino di pezza! Ce lo vedi! Ma nessuno ti ricorderà mai così! Ciao Carla! Ciao Carla! Il mondo ti ha salato morsa! E tu! E tu! Sei colorata al corpo di libide marche sparse! Davanti al bastone per dimenticare una rogna o qualcosa da spaccare con i denti. Ciao Carla, le strade del Signore sono infinite e tu hai imboccato la più buia.